motore. Buonasera, Benalcastro. E allora? Chi sei, papà? Gianni, buonasera, Benalcastro. Ho sentito bene, dai. Ciao, Maria. Io sono qua in ascolto tutta la sera, insomma, entrato e lo lascio attaccato per scaldare un po' gli apparecchi. Se non c'è nessuno faccio altro e lascio gli apparecchi attaccati. Quando sento gente entro. Dovevi attaccarli, se no si rovino. Ascolta a me, sto venuto il robot, facciamo un rumore come sottofondo. Cos'è? L'alimentatore, cos'è? Non ho capito. Come stai modulando? Sento il rumore, cosa c'è? L'alimentatore? Si sente un rumore di alimentazione, una cosa del genere. Adesso si sente. Eh sì, si sente come sottofondo, ho capito. Lo sentivo anche l'altro giorno, eh. Perché c'era l'alimentatore attaccato, guarda adesso. Probabile sia quello. Vediamo se c'è squalo. Attenzione, squalo bianco. È impegnato, squaletto. Già, anch'io sono mezzo incasinato, ti ho spiegato perché non faccio meglio, che faccio meglio. Faccio un po' d'ascolto su altre cose e basta. Non mi devo dire che entrare, guarda. Ti ho spiegato l'altro giorno. Sono la mattina, sto solo scendendo per qua facendo il mio sforzo e sono incasinato. Se no sarei entrato anche più frequente, capito? Vabbè, ognuno c'ha i suoi problemi, ma nessuno ti sta dicendo nulla, per carità. Prima le cose prioritarie, poi si può pensare anche alla frequenza. No, io accendo la sera dopo che finisco di cantare, perché io ho la passione del canto, quindi mi faccio un po' di contest cantando, faccio le gare, dai. Esatto, ti passi l'ora, lo fai bene, ti passi l'ora, è giustissimo così. È giustissimo, ma da volte a me io accendo, sì, poi non voglio neanche parlare, perché c'ho la testa di abbassare l'uglio, ce l'ho anch'io, anche se la persona è un po' grandetta, però mi fa male anche a me, capito? È come sia più della madre, più di mia madre, diciamo, perché se la madre non c'è più, dunque. La conosco più di 50 anni, dunque a vedere quale condizioni mi fa male, dunque molte volte quando accendo non mi ascolto oppure me ne vado su, cioè le frequenze e ciccia, capito? Non mi viene voglia neanche di entrare, non per nulla, però tutto qua, piano piano, dai. Siamo in passaggio e la vita continua. E così è. Tu cerca di goderti la pensione tranquillamente. E allora, sono guai. Ti stavo dicendo già, vabbè, hanno risolto per quella fare la pensione. Tutto a posto. O sei ancora mezzo incasinato? No, io voglio pensare a 57 anni. A 67, cioè, scusa. Sono stato pagato la pensione di anzianità, così. Come mai? Ma i contributi? I contributi li hanno calcolati, mi danno l'assegno ordinario più i contributi. Io vengo a prendere più di 1200 euro. Ho capito, e a me così questo mese mi ha fatto un po' di trattenute, mi hanno fatto questo mese, vabbè, ma è naturale, non a me, ma anche a tutti quanti, dai, avevo superato il corso e dal prossimo mese dovrebbe essere regolare. Io la mia pensione d'anzianità, diciamo, là, sono andato con la massima, ma io quasi 44 anni, non avevo i contributi, e loro se ne pagano 42-10. E vabbè, siamo usati. Interessante che sono arrivato, poi, avanti. Interessante che c'è una pensione che ti possa consentire di campare. Esatto, guarda, non mi posso lamentare, niente, intanto, lo metto già, con quella cifra non mi posso lamentare. Non so, non sta lavorando, prendi sempre qualcosa in più perché ci sono tutte le altre cose, capito, c'è la festività, però qua, però devo calcolare che io ci metto la benzina da ottava dove lavoravo, dunque ci mettiamo parecchio benzina, cioè, e poi non è solo benzina. La macchina, già lo sai, gomma e così via. Dunque, con quella cifra che stiamo lavorando non mi posso lamentare. Allora, va bene, Mario. C'è chi sta peggio. No, non ho capito già, scusa. Certo, c'è chi sta peggio. Su, camminiamo, su. Dove? Cingomi. Dove? Cingomi. Buonasera a tutti, su camminiamo, su. Ciao Maria, ciao Giovanni, dai. Sono intanto per salutarvi che sto preparando per andare a lavorare. Ehi, ciao Manuè. Ti ho mandato un filmato di quello che c'ha l'acquario da 1000 litri, ce l'ho dovuto comprare uno da 3000 litri adesso, non c'ha solo quello, ne avrà una quindicina di acquari, c'è anche quello marino. Ma quello è un fatto furioso, l'ho visto, un fatto furioso. E gente che c'ha su, lo sa dei lampalli, c'ha roba di 15 acquari, cazzo c'ha l'allevamento di cose, di scalari, c'ha cazzo scalari a gogo, hanno fatto anche figli, ne avrà una cinquantina di scalari, solo di figli, poi c'ha le coppie, poi c'ha quell'acquario grande da 1000 litri, ne ha altri, perché ha detto che lui arrastava tutti quelli che si stufano degli acquari che poi non riescono a portarli avanti, se li prendeva lui, e adesso c'ha la casa piena, ma c'è una casa enorme, capite, una villa grande c'ha, e ha detto state attenti dove mettete gli acquari perché non dovete superare i 100 litri, perché secondo come va l'acquario chi sfonda il pavimento. Ah, che cazzo sta cazzate, ma sta cazzate, lascia perdere quello che dice. Ma non è, scusa, già, ciao, io sono in squadra, non voi? Sì, di gomma ce l'hai io, Mari? Ce l'ho qua, di la via domani, che se ti vede sono il porto, dai. Comunque, visto i gambinetti come crescono, già. Ma io non ne ho visto nemmeno uno da me, niente, proprio nulla, nemmeno una volta. Quanti ne hai tu? E tre, cazzo, non abbiamo preso, erano 5 e 5, dopo erano 3 e 3. Adesso quanti ne hai visto lì, quello ti sto dicendo. Non ho capito. Ne hai visto uno solo o ne hai visti tutti? No, la cosa sì, due ne ho visto il giallo e quello blu che ti ho fatto vedere. Se cannuso, sono nascosti via, perché anche i butia si nascondono, poi a volte la notte escono, capito? Però si nascondono tutto il giorno. E anche io devo prendere due di butia, ma costa un bel di nappalo. Ma non ho visto quello che avevano offerta, costavano 9 euro, normalmente 7 euro con l'offerta. Quante le volevi te ne dava 7 euro? E chi sa che avevo, come se ti ridava, come se i camperetti, cazzo pari animale, tanto mai non si vede. Quello lo so, infatti è meglio sempre vederli in diretta le cose. Ma me ne prenderò anche io un altro po', perché questo ragazzo mi ha detto che anche lui quando ne aveva due si nascondevano, poi gli ha messo, siccome sono pesci di branco, e ha detto che se ne ha preso un altro po' e vanno tutti davanti. Lo so quanto durano i butti, anche 20 anni. Vabbè, dai, comunque, adesso ne prendo due. Guarda, adesso mi hanno fatto, cazzo, sono tutti graviti, tutti graviti, cioè quello che mi ha dato il tubo non ero, cazzo, sono sempre più sicenti. E quella è una femmina, poi fuggi, la staranno stressando in tanti, perché ci vogliono più femmine che maschi. Avanti, bravi, se lo ti hanno. Vabbè, tranquillo, già, non preoccupato, state parlando di pesce a cane, il balene. Dove sei, Manuele? Già la voce, no? No, adesso mi preparo, già la volo, devo fare dare 10 alle 6:30, Mi sta arrivando, stai per le 7. 7:30, la radio è perfetta. La radio è 5, diciamo. Va bene, ottimo. Bene, vai. Avanti già. Tu sei 9:30, Mari. Avanti, ma noi vediamo un po' come arrivi a me. Lui va già anche nella stessa Olimpo. Vabbè, dai. Vi saluto. Ciao Gianni, ciao da Marina, dai, ce la riascoltiamo. Mi guardo un po' di televisione. E poi mi preparo. Ciao, ciao Manuè. 9:10 qua, sì. Andare, ciao a tutti. Buonasera. Ok, ciao Manuè. A domani se coincide, ci sentiamo. Ma vediamo se c'è lo squalo bianco. Squalo? Io ci devo assignito. Tore! Ovvia, da si è impegnato. Poi è andato a prendere il posto, sicuramente. No, poi l'ho trovato qua, doveva fidarsi a fare la terapia, quindi spegnerebbe a quest'ora più o meno. No, Emanuele ci abbiamo la stessa passione, abbiamo la passione per gli acquari, io ce l'ho già da quando ero ragazzino, poi l'ho sempre ampliato, l'ho sempre fatto più grande, e a me mi hanno fatto figli eccetera, tutto quanto dentro. Ma se stai a comprare pesci, ci sono pesci che costano 20 euro l'uno, le lumache costano sulle 9 euro, poi i gamberi lo stesso costano un sacco di soldi, però ci sono blu, rossi, gialli, ce ne sono tanti colori. Ce ne sono pesci belli, se da parecchio mio cognato. Vaglio già, è un travaglio. Drogato. Perché mi piacciono, ma è un lavoro, no? Basta, già basta quello che faccio qui a casa, qui in campagna, mi sto organizzando una settimana per iniziare ad attagliare un pochettino di roba, che l'erba sta crescendo, non mi stai, non i guai. È un lavoro, mi piace avere una bella acquario grande, mi piace perché è bellissimo. L'acquario è bello, anzi c'è stato un amico che è stato nel Pisa, no, Valle, a Sant'Orsola, e si è fatto un acquario, se l'ha murato, e tu vedi, e se l'ha messo dentro una televisione. Tu vedi attaccato nel muro, vedi lo schermo della televisione. E vedi c'è l'acquario incorporato. Sì, sì, ci sono tanti che l'hanno fatto, ma tanti anni fa lo facevo. A parte chi ha detto cocomane. Vai, drogato. Drogato sarei tu. No, sentivo qualche cosa di strano, però Marino era forte. No, già, ti chiedo scusa, c'è un problema all'orecchio. Abbassa leggermente, appara un pena. Chi era, amico? Non sono riuscito ancora a capire chi era. Luca. Ah, Luca. Ebbene, mi sei giro se sei a casa non niente. Luca, entra e scappa. A bocca piena, sì. Io glielo volevo spesso a Luca, lo vedo su internet. Luca, esa scappa. vabbè, anche lui c'ha le cose sue. Ognuno c'ha il suo impegno, non c'è niente da fare. Mi dugai. Luca, deve c'ha le cose tue. Non rispondi. Ha fatto una battuta e sicuramente è il chat. Esatto, è una mura via chattenghe. ragazzo, oh, comunque con l'interno che ho messo già, 1-1, massimo 1-2, 1-1, 1-2, c'ho subito attaccato qua, non so dove vale più, anche se è un interno di, che non vale nulla, comunque già va bene, dai, con quella cifra che ha già pagato. Allora, andare vanno bene, sono più di leggere come materiale, ma vanno bene, resistente anche il materiale che hanno. Un po' più leggero della Mantova. Esatto, io ho bella isolata, bella proprio messo il focalizzante, chiudo col nastro e già va bene, ottimo. Più ho messo i tre tiranti, e va bene, quando va, gira meno bella e la scendo, e faccio la manutenzione e così via. Io gli ho messo un nastro sul vulcanizzante che c'è più di un anno e mezzo e non si è ancora staccato, solitamente dopo si staccano le... Questo nastro è veramente buono, non si è staccato ma quel nastro. Esatto, io l'ho messo proprio abbondante, ogni cosa va abbondante, proprio l'ho tirato proprio per attaccare meglio, abbondante, e poi alla fine l'ho messo un nastro isolante sopra, l'ho messo. Ma come voglio lo abbasso quando mi piace, capito già, non ho problemi se risulta ormai. Schiaccia la manovella, gira la manovella e esce di giù. E me la controllo, posso fare la manutenzione che voglio, capito? Dunque, con quel sistema ho fatto 13. E hai fatto bene, perché poi si va avanti con le terre, non ce ne ha voglia di salire sul tetto. È un pericolo per l'equilibrio, eccetera, eccetera, lascia perdere. Hai fatto bene. Vabbè, io non è che abbia molti problemi, perché io non faccio altro che smollare il bullone che c'è sotto, si abbassa il palo e arriva, capito? È più o meno uguale. Vabbè, comunque io adesso ti saluto perché il cane mi sta chiamando e vuole scendere giù. Vero Tyson, andiamo giù. Come mi sto guardando, casino la testa. Dici anche il cane ce l'hai, no? A quell'ora su, c'è un orologio, c'è un orologio, non c'è nulla da fare. Anche il cane mio figlio lo stesso, Vabbè, ormai sto giù fuori il cane mio figlio. Entra solo per dormire e basta, c'ha il suo cuscino, però ormai tutto il giorno fuori. Però se c'è qualcosa, c'è l'orecchio bello abbastanza attento, basta che qualcuno batte, che suoni il campanello è sempre già con la bocca aperta. Sinceramente io sul tetto ho paura, non mi vergogno a dirlo, ho paura, perché ho spaccato una tenda, come si chiama, la chiesa mi aveva dato la... a 50 anni mi aveva dato, no, la mantova mi aveva dato, la mantova. E come al solito io cretino, per non chiamare nessuno, stavo pensando da solo. Ero sul punteggio, sinceramente, pensavo che non mi sarà da parte. Un colpo di vento mi stava buttando giù, ho preso, l'ho buttata giù la tenda, la tenda non è di vecchia, gli ho detto. E mi ti spaccio tu, ti spaccio io. E l'ho fatta a pezzi, l'ho fatta, sinceramente. E poi è stato sul tetto, ci vuole sempre una persona, ma se mi scala, poi meglio nulla. Poi sul tetto, meno si sa e meglio è. Con quel sistema ho fatto 13, boh, basta. E non avevo paura, c'è vento e così via. Meglio evitare di stare sul tetto, a una certa età, intendo. Se sei ragazzo è un discorso, ma a una certa età basta un piccolo cappuccino e ci scendi giù. E non è basso, bisogna essere consapevoli che a una certa età bisogna evitare certe cose. Dai, saluto Mari che sta frignando questo qua, ma è buona della mimura. Tranquillo, sentito il cane. Tranquillo già, ci sentiamo, vai. A domani, ciao. Ciao, buona serata, ciao.